Allora io ringrazio Fabio Treves, Treves Blues Band questa sera a Milano, Blues in Idro 2011, Idro Scalo, anche se Radio 24 trasmette in tutta Italia, quando vedete Treves Blues Band andate ad ascoltarli perché sono una sorta di elemento di garanzia per chi ama la buona musica. Grazie, grazie a te Daniele, tutti sul treno della buona musica, grazie a Radio 24. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, cercateci su Facebook, Twitter, comunicate con noi via mail, controluceradio24.it. A domani 6:30, Radio 24.